In occasione della presentazione della stagione del Teatro Duse sono con Umberto Fiorelli, curatore di Fantateatro, un progetto veramente molto importante per quelli che saranno gli adulti di domani. Vuoi raccontarci, Umberto, quali sono, diciamo, i principi informatori di questa vostra iniziativa ormai annosa? Sì, noi quest'anno, la stagione che viene, al termine della stagione, compiremo 15 anni, quindi i bambini che all'inizio hanno cominciato a venire ai nostri spettacoli ormai sono degli adulti. E il nostro progetto teatrale è quello appunto di portare il teatro alle fasce di età più giovani, quindi i bambini dall'età scolare in poi e anche i ragazzi. Con il tempo abbiamo modulato una nostra precisa proposta che è quella di cercare di intrattenere le famiglie, quindi non fare spettacoli esclusivamente per i bambini, ma che intrattengano anche gli adulti. Adulti che li accompagnano. A fianco di questa attività di spettacolo dal vivo c'è tutta un'attività formativa di laboratori nelle scuole e privati. La trovo una cosa veramente, oltre che meritevole, necessaria perché le scuole stesse non hanno spazio, tempo, non sono strutturate per fare questo e quindi Fantateatro subentra in questa lacuna. Sì, noi siamo gli esperti esterni, come si dice, e anzi è un'attività molto importante per le scuole, tra l'altro è stata molto limitata negli ultimi 2 anni, speriamo possa riprendere a pieno regime. Troppo spesso viene fatta con il contributo dei genitori, perché le scuole stesse non hanno fondi per queste attività. Il teatro è soltanto una, ma ci sono le arti, le scienze e tantissime altre attività extracurricolari, diciamo così, che in realtà per i ragazzi sono molto importanti, spezzano il ritmo della lezione frontale e permettono di imparare in maniera diversa. Noi auspichiamo che torni centrale il ruolo del teatro e di tante altre attività extracurricolari. A breve ci saranno due appuntamenti con lavori ormai consacrati dalla tradizione, che sono Pierino il Lupo e il Lago dei Cigni. Esatto, sono due spettacoli che uniscono il teatro alla danza, che verranno interpretati dal nostro corpo di ballo e anche dagli allievi più meritevoli delle nostre accademie di danza, perché abbiamo oltre 200 ragazzi di tutte le età che, oltre che imparare il teatro, imparano anche la danza con noi. Questo sarà appunto la conclusione della stagione estiva nel cartellone di Bologna Estate. Ecco, vuoi spiegare a me e a chi ci ascolta che cos'è l'iniziativa Bimbi Alduse Conad? Certo, è arrivata al sesto anno, è un'iniziativa di spettacoli inerenti le fiabe più celebri e alcune fiabe originali che abbiamo creato noi di Fantateatro, che è fatta appunto al Teatro Duse con il sostegno di Conad, che oltre a sostenere l'iniziativa fornisce il biglietto a ingresso ridotto per i possessori della carta Conad e quest'anno, da quest'anno offrirà anche la merenda al termine degli spettacoli perché avvengono in orario pomeridiano. Ecco, poi il 6 gennaio ci sarà un appuntamento ormai ricorrente per voi, cioè uno spettacolo benefico. Esatto, è una cosa a cui noi teniamo particolarmente perché è la Befana dei risvegli, diciamo, che appunto serve a destinare l'incasso alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris. È una collaborazione ultradecennale insieme a Fulvio e siamo molto felici di poter continuare a farla sempre qui al Teatro Duse e verrà riproposto uno spettacolo La Regina delle Nevi che per le condizioni che tutti conosciamo non è stato possibile presentare a teatro pieno, quindi a grande richiesta lo riporteremo in scena.